Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chiedo scusa per la bassa qualità della voce. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Deve ancora iniziare realmente la spending review, ma sono già iniziate le polemiche, come il nostro GR24 ricordava, soprattutto sull'ipotesi, o meglio, la richiesta di tagli alla sanità. Si ribellano molti presidenti delle regioni, soprattutto del nord. Cercheremo di capire come si possono fare tagli non lineari alla sanità e soprattutto se si riesca, come indicato anche dal Presidente del Consiglio, a fare tagli mirati soprattutto sul fronte degli approvvigionamenti. Sappiamo che su 800 miliardi di spesa pubblica, infatti, 400 sono vincolati al pagamento di stipendi e pensioni. Negli altri 400 ce ne sono circa 135 di miliardi che si chiamano spese per consumi intermedi, sostanzialmente sono gli approvvigionamenti della pubblica amministrazione. Su questo dovrebbe concentrarsi il taglio, perché sappiamo che ci sono 30.000 enti appaltanti, ovvero 30.000 soggetti che possono indire una gara per comprare una fotocopiatrice, per comprare un frigorifero che può servire in quel reparto, per comprare un macchinario costoso e quant'altro. Nessuno ipotizza un unico ente appaltante, anche perché questo, come più volte fatto notare, taglierebbe fuori le piccole imprese o le medie imprese che in realtà non riescono magari a rispondere a ordini troppo grandi. Però da 30.000 a 3.000 sarebbe già qualcosa. Il punto qual è? Sono ancora i costi molto diversi nell'approvvigionamento sanitario da regione a regione. Di questo parleremo, vedo che qualcuno mi chiede già di parlare della Sogesit, ne parleremo, vi accenneremo quantomeno, perché è un altro caso, diciamo, da questo punto di vista, di enti tra virgolette inutili che non si riescono a chiudere. C'è chi dice fosse solo la sua voce di bassa qualità, immagino che si riferisca anche al resto del programma, allora mettiamola così, la voce sia adeguata alla qualità del programma. Invece, per quello che riguarda gli altri temi, ci occuperemo anche della giornata preparatoria al vertice Eurogruppo Ecofin che si terranno a Milano. E oggi è stato un primo incontro non ufficiale, nel senso che non è un incontro dell'Unione Europea, a cui interverrà comunque Mario Draghi in serata. È già intervenuto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e ci si aspetta che Draghi non solo confermi, ma forse vada anche più nel dettaglio su quanto annunciato e eseguito nell'ultima riunione della Banca Centrale Europea. Domani è appunto il vertice in cui si confronteranno i pesi e anche la richiesta italiana. Ora, su questo fatemi dire una brevissima cosa, poi partiamo con la notizia in breve. Vedo che molti giornali, compreso il Sole 24 Ore, con oggi una bellissima analisi di Attilio Geroni, fanno notare una cosa, che nella composizione della Commissione Europea, cioè dei ministri, diciamo così, dell'Unione Europea, ha vinto la Germania. Perché lo diciamo? Perché è vero che il commissario degli affari economici è Pierre Moscovici, che è un, oltre che essere francese, è da sempre contrario a un'applicazione rigida del tetto del 3%. Tra l'altro la Francia, come avete letto, ha chiesto altri due anni, cioè entro, non prima del 2017, riuscirà a riportare il deficit al 3% come previsto dall'Unione Europea. Ma dicevo, l'azione che dovrebbe essere un po' di ammorbidimento di un patto di stabilità meno ragionieristico, insomma tutto quello che ci diciamo da anni, verrà probabilmente, non dico svuotata, ma di molto ridotta, perché sopra Moscovici, Juncker, che già è un fedelissimo della linea del rigore di Angela Merkel, del resto era premier del Lussemburgo, non è che il Lussemburgo rappresenti molto, Juncker rappresenta se stesso, quindi ha, diciamo, come riferimento un paese, e il paese si chiama Germania, ma è riuscito a piazzare dei vice presidenti di commissione che si chiamano Erkki Katainen, che è l'ex premier finlandese che ha perso le elezioni poi per la politica del rigore, è, diciamo, più rigorista dei tedeschi stessi, è più realista del re, e un altro vicepresidente che si chiama Valdis Dombrovskis, che è lettone, che ha la delega all'euro oltre che al dialogo sociale. Fa un po' ridere, visto che l'euro, la gestione dell'euro ha creato poco dialogo sociale. Comunque, mentre il finlandese Katainen ha la delega su lavoro, crescita, investimenti e competitività. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, avendo piazzato due vicepresidenti sopra i commissari e due vicepresidenti assolutamente rigoristi, quindi più tedeschi che tedeschi, la nuova Commissione europea è a tutela tedesca. E allora dico una cosa e poi partiamo con le informazioni in breve. Mesi fa ci permettemmo di proporre, così modestamente, di dire al presidente Renzi: rinunci alla candidatura di Federica Mogherini, bravissima, quello che volete, ma è una candidatura molto formale, molto di facciata. Sappiamo tutti che Mr. o Miss Pesce, quindi l'alto rappresentante dell'Europa, ha una funzione, sì, formale, di alto rappresentante, ma la politica estera la fanno i singoli presidenti o cancellieri o presidente del Consiglio. Vedi il caso Ucraina con la visita di Merkel a Mosca e i movimenti dei vari capi di Stato e di Governo. Per cui è un ruolo più così, assolutamente prestigioso, ma con poca capacità effettiva. Punti l'Italia, chiedemmo su dei commissari in materie economiche. C'era la possibilità non di avere gli affari economici, ma di pensare per esempio al mercato interno, industria e PMI. Il ruolo di Tajani fu importante, pensate a quello che fece con i crediti alle imprese e con i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, di pensare comunque alla tutela del mercato interno, della concorrenza, del mercato interno, del commercio, che è andato alla Malmström, alla svedese Malmström, o di nuovo l'agricoltura, anche se la PAC ormai ha chiuso tutte le operazioni e se ne riparlerà nel 2018-2019. Perché? Perché quelli erano i ministeri veramente importanti per difendere il Made in Italy da un lato, e quindi tutta la polemica su cui sono poco sensibili i paesi del nord sulla denominazione di origine dei beni e di dove questi beni vengono prodotti, oppure anche nell'andare a gestire le politiche industriali del mercato interno delle piccole e medie imprese, particolarmente importanti per un paese come l'Italia, che è la seconda manifattura in Europa dopo la Germania. Insomma, c'erano altri ministeri, o le politiche agricole, visto che il 95% delle risorse erogate agli agricoltori europei arrivano proprio dalla politica agricola comunitaria. Così non è stato. Siamo molto contenti che Federica Mogherini ce l'abbia fatta, ma notiamo, e quindi contentezza ce n'è poca, che la nuova Commissione europea segna un'altra vittoria per la Germania e soprattutto ha degli elementi al suo interno che renderanno difficile, se non impossibile, pensare a una Commissione europea più orientata verso criteri di crescita e di flessibilità e non criteri di rigore e austerità, finché non si raggiungono i parametri stabiliti dalle tavole della legge di Maastricht. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Proposto Fassina commissario, chi scrive questo non sa di cosa sta parlando. Obiettivamente noi ci permettiamo di dire durante Vin Italy che secondo noi una persona come Paolo De Castro, amato da tutti gli agricoltori italiani, poteva essere un buon commissario all'agricoltura, ma ripeto, c'erano anche il commissario all'industria, al mercato interno, al commercio, cioè. E invece abbiamo molto prestigio e forse visibilità, poca capacità di incidere, di decidere. E mo ci becchiamo pure questa sorpresina dei vicepresidenti finlandesi e lettoni più tedeschi dei tedeschi. Ancora per quello che riguarda le notizie, partiamo dalla borsa: meno 0,30% Milano, meno 0,20% l'America, meno 0,11% Francoforte, meno 0,26% Parigi e meno in questo momento Londra fa meno 0,60%, euro a quota 1,29,33. Per quello che riguarda l'economia internazionale, già il nostro GR24 vi ha ricordato come sostanzialmente Van Rompuy abbia annunciato domani sanzioni europee a Mosca, ma verranno valutate. La Commissione infatti verificherà lo stato di avanzamento del piano di pace e proporrà eventualmente delle revisioni. Mentre per quello che riguarda sempre i temi europei, faccio notare che oggi il Fondo Monetario Internazionale, tramite il suo portavoce William Murray, dice che se in Scozia dovessero vincere i sì per la secessione, questo creerebbe incertezza economica e causerebbe volatilità sul mercato nel breve termine. Vista la buona stampa di cui gode nell'opinione pubblica il Fondo Monetario Internazionale, secondo me, se il Fondo Monetario Internazionale si schiera a favore dei no, dà una grossa mano ai sì, perché dà l'impressione che un organismo eletto da nessuno, che ha combinato anche un bel po' di cavolate negli anni passati, si mette a dire agli scozzesi cosa devono fare. Di solito in questi casi è meglio star zitti, l'effetto boomerang è dietro l'angolo. Intanto il colosso bancario britannico Royal Bank of Scotland ha annunciato che se la Scozia sceglierà l'indipendenza, la banca, che è la seconda banca del Regno Unito, sposterà la sua sede legale in Inghilterra. E anche in questo caso il primo ministro scozzese Alex Salmond ha detto: questa è una sfacciata intimidazione. In effetti, voglio dire, non so, la Fiat ha spostato la sua sede legale in Olanda e nessuno ha detto, e non c'è stata nessuna secessione in corso in Italia, cioè voglio dire, uno può spostare anche la sede legale senza per questo essere visto come uno che fugge dal paese. O dovremmo pensare che la Fiat fuga dall'Italia e diventi solo americana perché ha la sede in Olanda? Non è così, e quindi la Royal Bank of Scotland ha tutto il diritto di portare la sede legale dove vuole. Un po' più difficile giustificare che lo farà se la Scozia dovesse diventare indipendente. Anche in questo caso l'effetto boomerang mi sembra abbastanza dietro l'angolo. Andiamo avanti invece con la Banca Centrale Europea, che nel suo bollettino mensile dice che nel terzo trimestre la crescita economica è modesta nell'area euro, ha perso slancio. In Italia questo slancio non abbiamo mai visto, per cui ha perso e basta. Ancora per quello che riguarda l'Italia invece, la Banca Centrale dice: attenzione, vi sono dei rischi sull'obiettivo di deficit che vi siete dati, è quello al 3%. O meglio, la BCE pensa ancora al 2,6% del PIL nel 2014, secondo me non lo faremo mai, ma visto quello che fa la Francia, all'Italia basterebbe arrivare al 2,9-3% di deficit. Veniamo all'Italia, dove da un lato la buona notizia per quello che riguarda il nostro debito è che i BTP a 3 anni sono scesi a un minimo storico di rendimento, e infatti il Tesoro sta anticipando molte aste perché con questi rendimenti costa molto poco trovare finanziatori per il debito. Oggi ha collocato 2 miliardi e mezzo quasi di BTP a 3 anni con un rendimento allo 0,52% contro lo 0,84 precedente. Ma la cosa interessante è che la domanda è aumentata, il rendimento è sceso e la domanda è continuata ad aumentare, è 1,66 volte l'importo, mentre la volta prima era 1,5 volte. L'industria italiana, allora, la produzione italiana nel 2013 ha perso un ulteriore 5% e rispetto al valore della produzione industriale nel 2007, nell'anno precedente lo scoppio ufficiale della crisi, siamo a un meno 25%. Attenzione, meno 25% è, da questo punto di vista, significa che è come se avesse chiuso un'impresa su 4, cioè noi produciamo, è chiaro che non è così, è chiaro che molte volte questa cosa si è spalmata sulle varie imprese, però dire che la produzione industriale italiana è crollata rispetto al 2007 del 25% significa che è l'equivalente di dire che una impresa su 4 ha chiuso i battenti. Ancora il commissario, diciamo così, ad interim all'industria, Ferdinando Nelli Feroci, perché i commissari nominati devono ancora prendere posto, quindi arriverà a breve, appunto, come dicevamo, la svedese Cecilia Malmström, per l'industria invece è la polacca Elżbieta Bienkowska. Sarà dura pronunciarli nei prossimi anni questi commissari. Comunque, in attesa, ad interim le veci le fa appunto Ferdinando Nelli Feroci, che ha così commentato il rapporto dell'Unione Europea sulla competitività, ricordando come in Italia la valutazione sull'Italia sia una valutazione in chiaroscuro. Anche il caso dell'Italia ha fatto oggetto di un'analisi serrata, se posso dire impietosa. La lista delle cose da fare è implicitamente indicata nell'analisi delle debolezze del sistema Italia. Abbiamo soprattutto puntato sul problema della inefficienza della pubblica amministrazione, sul carico eccessivo degli oneri amministrativi, sulla lentezza della giustizia civile e anche, se posso, forse più che in altri paesi europei, sulle difficoltà di accesso al credito da parte del sistema delle imprese ed in particolare da parte del sistema delle piccole e medie imprese. Queste sono parse le criticità maggiori. Ci sono però anche degli aspetti positivi nella nostra valutazione, che è una valutazione fatta di chiaroscuri. Abbiamo potuto notare che continua ad esserci, anche se leggermente ridotto rispetto a 2 o 3 anni fa, una bilancia commerciale in attivo, quindi una discreta performance del settore produttivo che esporta, ancora delle straordinarie nicchie di eccellenza scientifica in grado quindi di produrre effetti positivi anche sulla innovazione e un peso relativo del settore manifatturiero e del settore industriale che, per quanto in declino, resta pur sempre importante e comunque superiore a quello della media europea. Così appunto Nelly Feroci. C'è chi mi scrive: ma non è strano che se calano i rendimenti il BTP a 3 anni aumenti la domanda? No, non è strano, non è automatico però, perché tu puoi avere anche una domanda stabile e rendimenti in calo, però io non ho detto che sia strano, ho detto che nonostante rendimenti di quel tipo, e comunque erano già bassi perché anche lo 0,80 era basso, la domanda continua a aumentare. Perché? Perché se c'è domanda addirittura per rendimenti negativi, come raccontavamo la settimana scorsa nel caso della Germania, e cioè uno preferisce prestare soldi alla Germania sapendo che otterrà un rendimento negativo, cioè ne avrà meno indietro, ma almeno li mette al sicuro. Beh, è ovvio che anche nel caso dell'Italia, che comunque per quanto sia ai minimi storici come rendimento il BTP a 3 anni, rende comunque più di quello di altri paesi, c'è chi dice: tanto in questo momento l'euro terrà, l'Italia terrà con le mosse di Draghi, io compro debito italiano. Al di là dei motivi, questa è una finestra straordinaria per il Ministero del Tesoro per collocare il maggior debito possibile, perché non è detto che questi tassi bassi li rivedremo o li vedremo per sempre. E ricordo, c'è chi dice che ho perso la voce a Cernobbio, no, non è così, ma ricordo che proprio a Cernobbio tutti i banchieri che abbiamo intervistato, tra le righe, pur senza dirlo in maniera troppo esplicita, temono e temevano che a novembre, dicembre, se per caso l'Italia non fosse riuscita a mettere in piedi in maniera concreta le riforme che ha annunciato, l'umore del mercato degli investitori potrebbe girare. Lo temono tutti, poi non hanno il coraggio di dirlo perché non si vuole creare così l'effetto panico, l'effetto gufo, ma attenzione che in questo momento la finestra è assolutamente positiva. Allora, la vicenda Ferrari, Montezemolo, Marchionne, ne abbiamo ampiamente parlato, anche della buonuscita però scaglionata per i prossimi 20 anni in parte di Montezemolo. Oggi c'è stato l'ultimo consiglio di amministrazione sotto la presidenza di Montezemolo, che ha chiuso un primo semestre da record, ricavi a 1.340 milioni per la Ferrari, più 15% quasi. L'utile netto fa più 10% a 128 milioni quasi di euro. La posizione finanziaria industriale netta è la migliore da sempre, 1 miliardo e 600 milioni di euro. E quindi, insomma, uno la può pensare come vuole, nel braccio di ferro, nello scontro che c'è stato tra Marchionne e Montezemolo, però insomma i risultati parlano chiaro. Gli ultimi sei mesi per la Ferrari sono stati il miglior, diciamo, semestre da sempre. Poi vedremo cosa faranno i nuovi vertici. E a proposito dei nuovi vertici della Ferrari, ha parlato oggi anche Sergio Marchionne, il quale ha detto: attenzione, per ripianare le perdite che la Fiat ha in Europa, occorrerà, questo dipenderà dalla velocità con cui riusciremo a far ripartire l'Alfa Romeo l'anno prossimo. Continuo a pensare che il mercato europeo non sia un gran mercato, la questione prezzi e volumi proprio non va. Ho capito, però insomma intanto il mercato è ripartito, l'abbiamo raccontato molto bene, anche il mercato italiano, l'unico gruppo che non è riuscito a agganciare questa ripartenza è la Fiat. No, perché bisogna sempre dire le cose come stanno, poi uno dice queste cose, ecco che sei contro Marchionne, no, non sono contro nessuno, però visto che Marchionne dice tante cose condivisibili, da anche valutazioni che esulano dal suo ruolo, ci permette in un programma di economia di dire che forse la Fiat qualche treno l'ha perso, che dire che dipenderà da come riusciremo a far ripartire l'Alfa Romeo l'anno prossimo significa che il 2014 di fatto te lo sei bruciato. E faccio notare anche che sempre Marchionne ha detto che a Mirafiori stanno procedendo per lanciare il nuovo SUV che si chiamerà Levante, che arriverà a fine 2015, e cioè un altro modello arriverà a fine del 2015, poi magari sarà gennaio 2016. Allora forse dire che sui modelli il gruppo Fiat è arrivato in ritardo, forse perché è distato dalla fusione con Chrysler, forse perché guarda più oltreoceano che in Italia, non significa attentato di lesa maestà Marchionne, che comunque vi facciamo ascoltare nel passaggio in cui dice che non dovrebbe essere necessario un ulteriore aumento di capitale se porteremo avanti gli obiettivi, se la Fiat porterà avanti gli obiettivi annunciati un mese fa, tecnicamente l'aumento non sarà necessario. L'azienda, se riusciamo ad andare a portare i progetti avanti come andavamo a portarli, come abbiamo annunciato, tecnicamente non ha bisogno di capitale, tecnicamente. Questo ce l'ha detto. Sì, visto i tassi di interesse che stanno abbassando, quindi le cose stanno andando nella direzione giusta, abbiamo riaperto il bond, adesso abbiamo un altro mezzo miliardo, quindi la capacità di finanziare l'attività con la credibilità di quello che abbiamo fatto c'è. Poi tutto da decidere cosa vuole fare il consiglio, no? Vabbè, ma che i mondiali di Brasile sono finiti, faccio notare in regia, va bene per la nuova base brasiliana. Allora, noi di brasiliano abbiamo molto poco, sia come crescita economica che come altri elementi. Adesso, dopo il meteo e la pubblicità, invece parleremo di quanto sta emergendo da questo convegno organizzato da Eurifi, think tank europeo che si occupa di economia e finanze, in cui è intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Chissà se Renzi avrà parole anche su questo convegno, se anche questa sarà la fiera delle vanità, questo think tank europeo. Alle 21 interverrà il numero 1 della BCE, Mario Draghi. Non penso che il Presidente del Consiglio dirà che questa è una fiera delle vanità, anche perché sarebbe poco rispettoso nei confronti di Draghi e in questo periodo non conviene esserlo. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, intanto la borsa ha chiuso meno 0,23%, debole quindi il calo per Piazza Affari, ma restiamo sui temi dell'economia e della finanza, e per parlare appunto delle dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, rese appunto nella prima parte dei lavori del convegno appunto Eurofi. C'è l'inviata del Sole 24 Ore, Rossella Bocciarelli. Buonasera Rossella. Buonasera a voi. Allora, Visco ha anche, forse è la prima volta che leggo una stima, magari mi sbaglio, ha fatto una stima di quanto i maxi prestiti che adesso inizieranno da parte della Banca Centrale Europea alle banche europee dell'area euro, 800 miliardi, partirà una prima tranche da 200, a patto che li girino su imprese, famiglie, ma non per i mutui, quale potrebbe essere l'impatto sul PIL italiano? Sì. Lui ha citato delle stime per l'Italia che dicono che se le banche, diciamo, pienamente aderiranno a queste operazioni finalizzate, a queste operazioni di rifinanziamento finalizzate appunto a dar credito all'economia, l'impatto potenziale sul PIL potrebbe essere di 0,5 punto percentuale. che vista l'aria che tira non è affatto poco, se si considera che nel 2014 rischiamo concludere l'anno a zero, se non addirittura con segno negativo. Beh, un impatto mezzo punto di PIL, 0,5, sì. Con questi chiari di luna. Voglio dire, se invece che fare lo 0,2 quest'anno o lo 0,1 avessimo fatto lo 0,6, staremmo già a brindare, e se l'anno prossimo invece che fare lo 0,8 potessimo fare l'1,3, sarebbe un grande successo. Tra l'altro Visco è intervenuto anche sul tema degli investimenti, ha detto il cuore della crisi sta nella debolezza della domanda aggregata, cioè che vuol dire consumi ma anche investimenti, cioè domanda che arriva sul fronte dei consumi ma anche degli investimenti. E ha ricordato come i tassi per i prestiti alle imprese in Italia siano più alti della media europea. Ti è sembrato un Visco che fa, non dico che bacchetta, ma che fa moral suasion sulle banche, cercando di far capire che lui si farà garante di quanto ha deciso la BCE a Francoforte? Ma guarda, è un Visco sicuramente molto preoccupato della situazione dell'economia reale, questo è chiarissimo, perché appunto lui ha esordito dicendo che il rilancio degli investimenti pubblici e privati nazionali ed europei è cruciale per avviare la ripresa, cioè per uscire definitivamente dalla crisi. Questo si può fare soltanto se si fa una scommessa forte sugli investimenti. Ora, per riattivare gli investimenti le leve sono note. Da un lato c'è l'aspetto delle riforme di struttura che debbono in qualche modo modificare il contesto nel quale questi investimenti si fanno, dall'altro c'è un problema di recupero di fiducia e recupero di appunto che può essere ottenuto anche attraverso un migliore accesso al credito e un migliore accesso anche al finanziamento non bancario, perché il punto è che sicuramente il governatore della Banca Centrale Italiana alle banche non fa sconti, anche già al discorso che aveva fatto all'ABI. Incita il sistema creditizio a far bene il suo mestiere e quindi a concedere credito a chi lo merita. Però al tempo stesso il tema centrale del convegno che si è svolto oggi e anche in una certa misura dell'Ecofin che si terrà domani e dopo è che nella proposta per il rilancio degli investimenti portata avanti dall'Italia c'è anche proprio l'esigenza di migliorare l'accesso a fonti non bancarie di finanziamento. Questo che significa? Il governatore ha ricordato quali sono questi terreni sui quali bisogna andare. Allora, un obiettivo è ridurre il costo del capitale, un altro è rilanciare le cartolarizzazioni, che sono uno strumento che in passato ha fatto una figuraccia, perché è stato uno dei mali principali della crisi finanziaria, ma che può invece essere recuperato a condizione di fare tutta una regolamentazione che lo renda questi strumenti semplici e trasparenti, può essere recuperato e può essere molto importante in una fase di crisi come l'attuale. Puntare sullo sviluppo di tutte queste fonti finanziarie non solo il prestito bancario. Un'ultima nota. E poi investire in infrastrutture. Mm-hmm. E questo anche è interessante che ne parli appunto il governatore della Banca d'Italia, perché mostra l'attenzione all'economia reale, in questo momento. No? Sì, a me io sono rimasto colpito anche dal fatto che Visco dica ok, adesso con la deflazione sarà più difficile agire sul debito. Sappiamo che uno dei problemi di quando i prezzi calano è che se tu hai un debito l'anno dopo te lo ritrovi in termini reali più alto. È l'opposto dell'inflazione, che invece fa comodo a chi ha un grosso debito, perché a parità di valore nominale, il valore reale dopo un anno, no, se tu hai un'inflazione al 10%, 1000 euro dopo un anno ne valgono il 10% in meno, 900 euro. Se tu hai una deflazione del 10%, cioè i prezzi calano al 10%, i tuoi 1000 euro di debito dopo un anno valgono 1100 euro. Però mi ha colpito anche il fatto che Visco abbia detto: attenzione, la debolezza dell'economia non è più confinata ai paesi dell'euro sotto stress, cioè è generalizzata all'area europea. E poi ha aggiunto: se necessario, la Banca Centrale Europea farà ulteriori azioni di politica monetaria. Era oggi l'antipasto, diciamo, Visco, perché alle 21 parlerà Mario Draghi e poi domani Eurogruppo e vertice Ecofin qui a Milano, quindi nessuna trasferta europea, ma nessuna trasferta a Bruxelles o a Francoforte, ma in realtà trasferta milanese. Grazie all'inviata del Sole 24 Ore Rossella Bocciarelli. C'è chi contesta quello che ho detto prima, cioè è un ottimo momento per collocare il debito, visto che abbiamo i rendimenti dei BTP a 3 anni, anche a 5, anche a 10, quello a 3 anni al minimo storico, ma anche gli altri sono a minimi. E mi scrive: un ottimo momento per collocare il debito, viva l'economia statalista, spartita fra Stato, banche, grossi imprenditori e sindacati. Barisoni, quelli come te stanno distruggendo tutto ciò che è stato costruito dalla gente che lavora, vai a casa. Sì, se mi dà un'ora e mezza ci vado sicuramente a casa, visto anche come sono messo, però non sa che non ho capito. Veramente non ho capito cosa c'entri il fatto che abbiamo una bella finestra per collocare il debito e ci costa poco, e il debito ce l'abbiamo, e il debito è stato fatto in tanti modi. È stato fatto non gestendo sicuramente i finanziamenti, è stato fatto anche con una lotta all'evasione fiscale inesistente, è stato fatto pagando troppo alle opere pubbliche, con una pubblica amministrazione non troppo numerosa ma poco efficiente, è stato fatto anche ai tempi della scala mobile, ma poi ci pensò la fine della scala mobile a ridurre un'inflazione galoppante, è stato fatto anche c'è una grossa correlazione sostanzialmente dall'implementazione delle regioni basta vedere la curva, lì il nostro debito inizia a salire. Non ho capito che cosa c'entri. Tra l'altro, chi scrive, magari botte li ha avuti nella sua vita, gli facevano comodo rendimenti alti. Cioè, il debito italiano l'hanno creato gli italiani, l'hanno creato i politici italiani eletti dagli italiani, andava bene a tutti finché continuavamo a rifinanziarlo e magari in alcuni anni permetteva anche rendimenti. Cioè, è inutile far finta che il debito l'abbiano creato, gli unici che possono parlare sono i giovani, cioè chi ha forse meno di 18 anni, che colpe non ne ha, ma tutti gli altri, mi sembra che lei forse qualche anno in più ce l'abbia, devono stare zitti. Poi sarebbe interessante sapere cosa ha votato. Adesso arriviamo alla borsa, però avevo promesso un piccolissimo così approfondimento sul caso della Sogesid, società pubblica la cui chiusura fu annunciata 2 anni fa dall'allora ministro dell'ambiente Corrado Clini. È una società infatti per azioni controllata al 100% dal tesoro e creata 20 anni fa per dare attuazione alla legge Galli sui bacini idrici. È da anni che si dice che è inutile, ma è 20 anni che vive. Pensate che dal 2009 al 2011 ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente 426 milioni di euro per realizzare progetti senza gare, visto che è una cosiddetta società in-house, quindi svolge mansioni tipiche ministeriali. Ha comunque 143 dipendenti, un collegio sindacale, un consiglio di amministrazione di 5 persone e più un presidente e un amministratore delegato, che era, o meglio è, l'ex vicepresidente della provincia di Siracusa, l'avvocato Vincenzo Assenza, che è retribuito 326.000 euro annui. Ora io vorrei capire una cosa, al di là del fatto che questa società va chiusa, ma vorrei capire se anche il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti è in linea con il presidente del consiglio, cioè quindi su tutti gli annunci il fatto che si rottama, si cambia verso, che basta con i giri di poltrone, basta con gli enti inutili, basta con lo spreco. Perché lo dico? Perché intanto la società è ancora aperta. Ma adesso il ministro dell'Ambiente ha nominato ai vertici una persona di cui abbiamo il massimo rispetto, si chiama Marco Staderini, però voglio dire, adesso va ai vertici della Sogesid, ma Marco Staderini è stato nella sua vita nel consiglio di amministrazione della RAI, delle Ferrovie, è stato consigliere RAI, presidente di Rottomatica, nel CDA del Montepaschi Capital Service, nella Banca Toscana, è stato amministratore delegato della CEA, cioè voglio dire, ha occupato tantissime poltrone. Ora, a parte il fatto che anche sta cosa che uno giri tutti sti CDA, non si capiscono le competenze, ma non si era detto che si cambiava verso. Allora iniziate a dare un segnale, ministro Galletti. Non la sentiamo spesso, però vorremmo sentirla per dei segnali ancora più incisivi. Non la sentiamo, diciamo, come presenta, non se ne abbia male. Vorrei capire perché avete appena messo Staderini alla presidente della Sogesid. E tra l'altro il decreto sblocca Italia assegna a questa Sogesid i compiti di appaltatore ed esecutore di nuovo in house, quindi di nuovo senza gara, dei lavori pubblici da finanziare con 2,5 miliardi di fondi relativi agli interventi sul dissesto idrogeologico. No, dico, diamo idee, no? Per la spending review. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Parliamo di borsa, va là, e poi invece arriveremo alla spending review sulla sanità. -0,20% Milano, -0,20% Parigi, -0,1% Francoforte, Londra -0,45%, l'America -0,24%. Non è una giornata di quelle che ricorderemo restando nella storia. Allora, i titoli più in vista, partiamo da Fiat, visto che la commentavamo, +1,50%. Fiat ieri è andata bene, oggi ha proseguito la strada del rialzo, la borsa continua a interrogarsi sui piani che ha in mente Sergio Marchionne sia per Fiat sia per Ferrari, anche se il manager ieri ha raffreddato l'ipotesi di uno scorporo della stessa Ferrari, di un IPO, cioè una quotazione in borsa. Comunque il mercato crede che qualcosa possa avvenire ed evidentemente premia le azioni. Ancora per quello che riguarda i titoli, Eni, dopo la vicenda delle indagini che hanno coinvolto anche gli attuali vertici sulle ipotesi di corruzione internazionale in Nigeria. Eni ha sofferto, ha chiuso in calo dell'1%, ma in verità durante la seduta era arrivata a perdere ben oltre il 2%. Poi con un colpo di reni sul finale ha dimezzato le perdite, ma ovviamente al mercato non piace questa notizia sul fatto che Descalzi, l'amministratore delegato, sia indagato. Ancora tra i titoli che salgono oggi vediamo Tenaris +2,92%, Finmeccanica +1,70%, Telecom +1,40%, Telecom di nuovo la Telecom novela, cioè Team Brasil. Esatto, ormai il mercato si aspetta da un momento all'altro che sia presentata un'offerta per Team Brasil, anche perché la stampa brasiliana sostiene che questa offerta sia presentata entro fine mese, quindi il tempo è abbastanza limitato a disposizione delle altre società. In più oggi c'è anche la notizia di cui parla anche il Sole 24 Ore, che si torna a ipotizzare un avvicinamento tra Telecom e Mediaset, nel senso che Telecom potrebbe entrare in una new co insieme a Vivendi che controlla Mediaset Premium. Ovviamente è tutto da vedere, anche perché ricordiamo Telecom ha un accordo con Sky, però questo tra l'altro ha spinto in alto le azioni di Mediaset, che invece da lunedì a ieri avevano registrato un calo dietro l'altro. Le azioni hanno chiuso in progresso dello 0,3%. -8,8% di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo solo dare, per concludere l'approfondimento di borse, migliori e peggiori, pochi titoli, diciamo A2A -2,49%, Damiani -2,60%, fronte opposto invece Seat pagine gialle +7%, aeroporto di Firenze +6,70%, Ansaldo STS +5,70%. Allora, sul debito pubblico, visto che adesso parliamo di tagli di spending review e della rivolta dei governatori, dei presidenti di regione, ma non solo, anche dei sindaci sui la sanità sappiamo che è di pertinenza regionale, ecco perché, lo chiarisco a tutti, parlano soprattutto i presidenti e i governatori di regione. Devo dare una risposta a messaggi anche critici che sto ricevendo al 349-238-6666 sulla creazione del debito pubblico italiano in questi decenni. E c'è chi dice, sintetizza, ma insomma non c'entriamo niente noi, l'hanno creato i politici, DC e PC prima, patto perverso, e poi PD e Forza Italia, e poi il capitalismo di relazione, tutto vero, però voglio dire, la DC e PC venivano votati da qualcuno, così come mi risulta che anche il PD e Forza Italia qualcuno li abbia votati. Cioè, non è che dire che il debito l'hanno fatto i politici lavi la coscienza degli italiani in generale, tanto l'hanno fatto i politici, come se i politici venissero da Marte. Qualcuno li avrà votati, evidentemente c'era un consenso che forse per ipocrisia non si vuole ammettere, negli anni 80-90, gli grandi anni della creazione del debito, nell'andare avanti così perché andava bene a tutti, da una parte e dall'altra, e tanto il debito non era di nessuno, mentre i bot e i rendimenti stellari erano delle famiglie italiane. Comunque, questo ci porterebbe troppo indietro col tempo. Invece vorrei salutare e ringraziare per averci raggiunto in collegamento il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, presidente Zaia, lei, lo dico per dovere, ha chiuso il 2013 la Regione Veneto con un attivo di 7 milioni di euro nel bilancio della sanità. Faccio anche notare che la spesa sanitaria italiana vale 110 miliardi l'anno. Il 2013 si è chiuso ancora con un rosso, ma in riduzione, 1 miliardo e 600 milioni di euro contro i 2 miliardi del 2012. Tra l'altro, le regioni classiche, le pecore nere del debito sanitario, ossia Campania, Sicilia, Calabria, non sono più così nere, nel senso che Campania e Sicilia hanno addirittura chiuso l'anno con attivi di 11 milioni rispettivamente la Campania e 25 la Sicilia. In fondo alla classifica resta il Lazio, che ha un buco di 610 milioni di euro. In attivo invece, oltre a Sicilia e Campania, anche la Lombardia, 10 milioni, in Veneto, e in leggero attivo Toscana, Emilia Romagna ed Abruzzo. Male la Sardegna, 380 milioni di deficit, la provincia di Trento, 218, e quella di Bolzano, 180, e anche la Liguria, 91 milioni di euro. Allora, perché è arrivata una levata di scudi contro l'ipotesi, che insomma non è un'ipotesi, è un'indicazione arrivata in maniera molto netta, che la spending review toccherà anche e soprattutto difesa, istruzione e sanità? Ascoltiamo intanto il presidente della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino, che è anche presidente della regione Piemonte. Noi abbiamo firmato un patto a inizio agosto in cui noi prima di tutto ci impegniamo a rispettare il patto per la salute, che vuol dire riorganizzare, modernizzare, risparmiare. Dall'altra parte c'è stato un riparto del fondo che noi chiediamo sia messo a disposizione nel più breve tempo possibile. Se dovesse essere messo in discussione una delle due gambe, è chiaro che viene messo in discussione anche il patto, molto semplice. Vedo adesso un'ANSA che dice nessuno vuol tagliare la sanità, fonti di Palazzo Chigi, ne prendo atto con soddisfazione. Il fondo che abbiamo, il riparto del fondo prevede 109 miliardi con un aumento di 2 miliardi circa per gli anni 14, 15, 16. Intendiamoci, se intervenire sulla sanità vuol dire ottemperare alle indicazioni del patto per la salute che noi abbiamo approvato e abbiamo dato l'intesa insieme al governo al 5 agosto, siamo tutti d'accordo, perché questo è l'impegno nostro e lì ci sono dei risparmi. Per quando si dice che invece di 10 emodinamiche bisogna averne 5, che bisogna gli acquisti, bisogna avere una sola centrale d'acquisti, questi sono risparmi, questi sono previsti nel patto per la salute e questi noi li manteniamo perché è la parte di patto che abbiamo firmato noi. In cambio chiediamo che ci sia la messa a disposizione del fondo così come abbiamo sottoscritto per la parte finanziaria. Allora, governatore Zaia, io vorrei capire una cosa, perché insomma noi abbiamo degli esempi, visto che parliamo di Veneto e Piemonte, insomma un peacemaker identico costa 1.780 euro in Veneto e 2.200 in Piemonte, una valvola aortica, 19.000 euro nei guardi a Milano, 20.000 euro a Torino, alle Molinette, 21.000 euro in Toscana. Potrei andare avanti all'infinito. Comunque, un defibrillatore bicamerale, 16.000 euro a Bolzano, 13.000 euro a Trento, per cui addirittura tra Bolzano e Trento ballano quasi 3.000 euro di differenza sullo stesso defibrillatore, per non citare i casi ormai celebri della sacca di plasma, dei cerotti. Qualcuno si ricorda il pacco di cerotti da 20 euro che la ASL di Reggio Calabria pagava 3.500 euro, oppure quando ordinava per avere 6 camici ne ordinava 2.800. Cioè, voglio dire, tagliare le o razionalizzare gli approvvigionamenti sanitari e quindi gli enti appaltanti quando devi comprare qualcosa non è sbagliato, era tra l'altro un cavallo di battaglia della Lega, quella dei costi standard. Cos'è che non va in una riduzione, una eliminazione degli sprechi nel mondo sanitario? Cioè, perché avete paura di non poter garantire il servizio? Beh, guardi, semplicemente per un motivo, perché se da me una gazza costa 0,04 centesimi e ci sono regioni che le pagano 22 centesimi, lei capisce che magari non parliamo di valvole aortiche e quindi non fanno tanto scalpore, ma vedere che queste regioni pagano 650% in più quelle garze, valutata la mole di garza che si usa, lei capisce che lo spreco è lì. Tant'è vero che si dice che se si applicassero i costi standard nella sanità avremmo almeno 3-4 miliardi di libri d'ufficio da subito. Io parlo da una regione che è virtuosa, è una regione di riferimento a livello nazionale per i suoi dati della sanità, quindi è la regione benchmark, ed è una regione che è imbarazzata davanti a questo. Però mi scusi, io non capisco, cioè, se il governo intende eliminare gli sprechi, non verranno toccate i vostri approvvigionamenti? Cioè, voglio dire, se voi avete delle spese a parità di attrezzature che sono nella parte più bassa, cioè io quando sento la voce di sprechi capisco per esempio le centrali appaltanti, capisco rendere più omogenei possibili i costi, certo, per attrezzature identiche. Cioè, voi non dovreste temere nulla a questo punto. Ma guardi, lei ha ragione a fare questa osservazione che mi permette di spiegare meglio il concetto. La verità è che noi siamo davanti a una politica degli annunci, e se fosse vero che si va a tagliare gli sprechi, glielo sottoscrivo io che faccio il primo firmatario di questo. Ma la verità sarà ancora un taglio orizzontale, perché il governo fino ad oggi ha solo fatto tagli orizzontali. Per capirci, un pasto in ospedale in Veneto costa 6 euro e mezzo, in giro per l'Italia arriva a costare anche 60-80 euro. Se tu lo tagli orizzontalmente, dici abbassate come spending review il costo del pasto in ospedale del 20%, finirà che io non riesco più a comprarlo il pasto in ospedale e quello che spende 80 euro continuerà a sprecare. Prova ne sia che ci sono delle regioni che ogni anno chiudono in passivo il loro bilancio della sanità e puntualmente qualcuno va a ripianarlo. Ma io però questa volta, dopo il lavoro di Cottarelli, io adesso non voglio fare il difensore d'ufficio del governo perché Renzi non ne ha certo bisogno, però dico, questa volta, se ho ben capito, non vi saranno i tagli lineari fatti negli anni passati, ma dovrebbero essere tagli mirati agli sprechi. Cioè, mi lascia un po' sospetto questo insocio. Cioè, voi temete, Chiamparino per il Piemonte come vostro rappresentante, lei per il Veneto, temete che in realtà così non sia, ma perché? Cioè, se dovesse poi arrivare una richiesta al Veneto di ridurre, poniamo, del 10% la sua spesa sanitaria, allora capisco, lei mi dice stiamo già raschiando il fondo del barile, siamo già assolutamente efficienti, non possiamo ridurre ulteriormente. Ma guardi, innanzitutto noi siamo una regione efficiente, come l'ho detto prima, e che conosciamo l'immigrazione sanitaria, perché è bene ricordare che le regioni che governano male la sanità esportano ammalati, perché poi questa è la tragedia, cioè non riescono neanche a curarli bene questi cittadini. Perché noi siamo preoccupati? Perché innanzitutto è bene ricordare che i costi standard della sanità sono lì pronti a disposizione già dal 2011, quindi già Monti doveva applicarli. E noi diciamo, prima di chiedere al Veneto o altre regioni virtuose di tagliare ancora, di tirare ancora la cinghia, cerca di andare a far pulizia dove sprecano. Quando arriveranno i nostri livelli, inizieremo a tagliare anche noi. Non funziona più il sistema del taglio orizzontale. Quindi se da Roma qualcuno ci dice limate ancora del 10%, noi non lo accetteremo mai, perché prima devono fare pulizia, arrivare all'osso, ridurre l'infiammazione, togliere la cancrena nelle regioni che sprecano e poi venire da noi. Io so che adesso lei ha un altro impegno istituzionale e ci deve lasciare, però mi dica una cosa, ma non sarebbe meglio protestare una volta che il ministro Lorenzin vi dovesse dire anche il Veneto contribuirà, poniamo col 10%, allora se sono veramente tagli orizzontali è giusto protestare, non capisco la protesta preventiva, ecco. Guardi, gliela spiego subito. Fino ad oggi abbiamo solo avuto tagli orizzontali e le regioni che sprecavano continuano a sprecare. Quindi, visto lo storico, non ci fidiamo più. Chiarissimo il suo ragionamento, è appunto una protesta preventiva. Grazie al Presidente del Ragionamento Luca Zaia. Intanto ci ha raggiunto in collegamento l'economista Francesco Daveri, che ha spesso scritto di Spending Review. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera, buonasera a voi. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Daveri, lei ha sentito l'intervento del governatore del Veneto Zaia e le parole di Chiamparino. Non so, condivide anche come cittadino questa paura preventiva? Cioè, tante esperienze hanno avuto i governatori virtuosi, virtuosi non perché si definiscano tali, ma perché obiettivamente le spese sanitarie lì sono più basse che in altre regioni, che temono comunque che il ministro Lorenzin applicherà tagli in larga parte orizzontali. Lei è d'accordo con questa paura? Ma, condivido sicuramente la loro preoccupazione, rimane però il fatto che c'è un problema grosso come una casa comunque quando facciamo le somme di tutta la spesa sanitaria, nel senso che tuttora nell'ultimo documento di economia e finanza, quello dello scorso marzo-aprile, che adesso tra poco verrà aggiornato, la spesa sanitaria veniva data in aumento di 5-6 miliardi nei prossimi 4-5 anni. Quindi quando si parla di riduzione della spesa sanitaria bisogna sempre ricordare, sempre facendo queste cifre aggregate, no? I 110 miliardi o 109 che prima citava lei, sono comunque delle cifre che vanno naturalmente a crescere per ovvie ragioni. Uno è l'elemento, diciamo, tecnologico, che ha a che vedere col fatto che siamo meglio curati che in passato, ma le cure costano e sono coperte solo in misura molto molto limitata dai ticket che paghiamo, e quindi questo ovviamente genera un problema. E dall'altro c'è la demografia, che è un altro problema con cui la società italiana deve prima o poi fare i conti. Quindi questi sono i numeri di fondo, e il problema che intravedo facendo poi tutti i conti è che si applica sempre il concetto del perimetro, ovvero sia si fanno anche gli efficientamenti, si possono usare anche i costi standard, però poi nel momento in cui la conferenza Stato-Regioni con il Ministro della Sanità e con i sindacati si mettono d'accordo che le cifre risparmiate rimangono nel settore o magari vengono aumentate le risorse destinate al settore, è chiaro che c'è qualcosa che non va bene, perché se poi in ultima analisi vogliamo un po' ridurre le tasse, da qualche parte bisogna andare a prenderli i soldi. Ecco, è questo il punto che continua a essere non risolto, a mio avviso. Sì, anche perché il governo si attende 20 miliardi nel 2015, è più di una manovra finanziaria. Siamo certo, oltre un punto. Appunto, questi soldi devono essere, sì, ecco, andare a prenderli da qualche parte, e dubito che si possano andare a prendere solo facendo i tagli sui consumi intermedi, e bisogna purtroppo andare nella carne viva della spesa pubblica. Beh, però insomma, sì, però non è che io però mi rifiuto di pensare che si debbano sempre fare tagli orizzontali, non so, alla sanità o alla scuola, da dove funziona bene, o le forze dell'ordine. Cioè, io parlavo dei beni intermedi, che sono circa 130 miliardi, perché lei tra l'altro è d'accordo sull'idea di ridurre o di creare, c'è chi mi scrive addirittura un'unica centrale appaltante per la sanità. Pronto? L'ho persa, adesso lo recuperiamo. No, perché lo dico, perché tra l'altro se uno va a vedere la crescita percentuale della spesa sanitaria a prezzi correnti, tra il 2001 e il 2010 l'Italia ha avuto una crescita intorno al 40%, che non è poca, però è molto meno della Spagna, dell'Irlanda, del Portogallo e anche della Francia, e la Germania stessa ha avuto una crescita intorno al 25%. L'area dei 16 paesi dell'euro è nella media dell'Italia, di 17 paesi, scusatemi, quindi al 45%, mentre la spesa pubblica per la salute, non per la spesa sanitaria ma per la salute in percentuale al PIL, vede l'Italia assolutamente in media con l'area euro del 17%. Quindi il problema non è aver avuto una spesa sanitaria, lo dico fermo restando tutti gli sprechi di alcune regioni, non è che sia cresciuta in media più della media europea. Abbiamo recuperato Il professor Daveri, le dicevo, lei è d'accordo, le chiedevo, lei è d'accordo per un'unica centrale appaltante nella sanità? Ma insomma, tutto quello che va nella direzione di appunto efficientare gli acquisti che vengono fatti è una buona cosa, non bisogna andare ai tagli orizzontali del passato, questo sicuramente no, però nello stesso tempo occorre anche farsi carico del fatto che i trend demografici e i trend tecnologici, diciamo così, non vanno d'accordo con il modo in cui finora abbiamo gestito le politiche sanitarie, a cominciare dall'introduzione del sistema sanitario nazionale nel 78, che è stato introdotto in debito sostanzialmente. Mentre è un poi con i costi storici che sono stati un vero e proprio danno, un regalo agli spreconi, ai ladri, ai tangentari, e una punizione per le regioni più virtuose, questo è indubbio. Mi dica un'ultima cosa però, Daveri, giustamente mi fa notare un ascoltatore, ma perché il Presidente del Consiglio Renzi ha chiesto ai vari ministeri di individuare loro dove tagliare se Cottarelli era volato per 2 anni? Cioè, non è una domanda speciosa, perché è sembrato come dire, vabbè, adesso abbiamo letto quello che ha detto, che ha scritto Cottarelli, però voi indicatemi dove tagliare, altrimenti taglierò io. E allora Cottarelli che è servito? Insomma, Cottarelli ha fatto tutto il lavoro che gli è stato indicato, però indubbiamente ha prodotto 25 file PDF da 100 pagine l'uno, sono 2500 pagine che potrebbero tenere occupati i governi italiani da qui a 20 anni. Quindi la richiesta del Presidente del Consiglio la capisco così, cioè che probabilmente bisogna decidere all'interno di queste 2500 pagine quali sono le cose da toccare, almeno è una possibilità, poi ce ne possono essere altre. Ma ha scritto troppo Cottarelli secondo lei, visto che lei è un esperto di no, spending review? Scritto, però se si chiede a un esperto di scrivere l'enciclopedia la scrive, e quindi il problema secondo me è stato il mandato politico che ha ricevuto, che era troppo ampio, e invece con un tecnico è giusto secondo me individuare prima le aree su cui intervenire, dato che più o meno quelle sono una scelta politica, e una volta che la politica ha fatto la sua scelta, a quel punto si demanda al tecnico. Cioè tutto l'opposto richiesta di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo chiesto a Cottarelli di individuare dove fossero gli sprechi, senza individuare quali fossero le aree di intervento. E quindi lui ha prodotto troppo, e adesso tocca anche razionalizzare l'analisi della spending review. Però il discorso è che tanto ci siamo ritrovati con 2500 pagine all'interno delle quali la scelta torna alla politica, che ha di nuovo mano libera. Allora si giri la cosa dicendo i politici si prendono le loro responsabilità, dicono non lo so, tocchiamo la sanità, o tocchiamo gli enti pubblici, o tocchiamo quello che gli pare, magari le partecipate degli enti locali, e una volta individuati gli obiettivi da raggiungere indica sia la tecnica, i tecnici, a indicare il modo più efficiente per poter raggiungere questi obiettivi, perché questo almeno garantirebbe un po' di più il risultato. Invece lì adesso abbiamo 25 PDF che rimangono in un cassetto e nessuno li tira fuori. C'è bisogno di razionalizzare la razionalizzazione della spesa, è il massimo. Facciamo la spending review e la spending review. Ho capito benissimo il suo ragionamento, grazie anche al professor Daveri, che riavremo nostro ospite, Francesco Daveri. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.